WhatsApp. Ma è dove entrava stasera, però io non l'ho sentito. Sì, è entrato. Stavo parlando lui, io poi mi sono assentato, ero qua in camera, stavo facendo una cosa. Stavo parlando con Pomponio. Ah, già è entrato allora Pomponio. Sì, poco fa. Allora, anche lui è agganciato. A un certo punto no. Vabbè, ma bisogna vedere la definitiva. Un amico stava dicendo, forse non mi ricordo, non mi ricordo di cosa stavamo parlando. E vabbè, un casino, oh, yeah. A un certo punto. Andiamo bene, andiamo, che è? Mi ti ho mandato due audio. Due audio o due Audi? Audi. Due Audi. L'ho immaginato, claro. Dici che pongo lo squelch, no? Sento il barremo, mi giro di scatola. No, io lo lascio sollevato, lo squelch aperto, perché a volte chiama Daniel, sono l'unico che lo sente, dei nostri, poi non so se lo sente qualcun altro, Roberto e Antonello non lo sente, a me mi arriva Santiago 6, 5, 6. Oristano, lui era l'ingresso proprio di Oristano, la palazzina grande mi ha detto che c'era l'ingresso di Oristano, ma arriva molto bene, io gli arrivo una cannonata. Vabbè, c'è anche la posizione, claro, non è che... Lo so, ma ce ne sono altri che sono qua vicino a me, non so, Roberto non lo sente, infatti l'altra volta non stavo parlando, gli ho mandato l'audio, ma anche ieri c'era Massimiliano, ha attaccato Massimiliano, mi dà i punti, ma niente da fare. Io arrivavo sì, liscio, pure attaccato quella che ti ho fatto vedere, la Rem Italy, e sono arrivato 9. Beh, se 9 è un buon segnale, cavolo, a Oristano. Quanti chilometri sono da qua? 100? Contanti sono a com'era, Basanta, sono 220, Oristano sarà un'ottantina di chilometri da Cagliari, quindi sono più di 100. È un buon segnale. Ragazzo. Lui ha detto che sente solo a me la stessa di parlare. Non so, poi... Non so cosa dire. No, io le arrivo a Santiago 6, ma lo ricevo anche Santiago 6. Non è un problema, 5, 6, non di meno. Io le arrivo a Santiago 6 così con la potenza della radio. Se invece attacco le arrivo a 9. Proprio me l'ho fatto, c'era Massimiliano ieri, ti dico balle. Addirittura anche con picchi positivi, quasi a 9 più 5. Però, insomma, stavi dando un po' di birra, eh. Ma va bene anche arrivare a Santiago 6, che problema c'è? Vabbè, comunque arrivi. E a dove arrivo, sì? Boh, ma non solo a lui, a tutti quelli di quella zona. Solo che sono loro che non arrivano, capito? C'è l'altro vicino a lui, lì a Cabras, dice che mi sente fortissimo, però io non lo sento a lui, non arriva qua. Io. Mi si vede la cosa. Abbiamo qua. Senti di Utah. Aspetta un attimino. 14 di queste buste. Senti di Utah, chi si? K. Sì, vabbè. Conta molto la posizione, sembra così. È come se ti ricordi anni fa. Adesso mi cosa l'hai detto tu o Vata, non mi ricordo chi, basta avere una posizione alta, basta anche un'antenna da niente e arrivi in capo al mondo. Ah beh, la posizione vuol dire tutto, ma anche le antenne sono molto, molto importanti, se non hai posizione molto buona sono importanti anche le antenne, non è importante la radio. La radio già funziona. No, io non posso lamentare già, sono più che contento. Ma anche dove devo andare, stai tranquillo che la mosca dal naso già me la tolgo lo stesso. Mi faccio sentire lo stesso, nel senso buono, non è che devo fare prove con nessuno, però già mi sento lo stesso. È molto alto anche lì. È molto alto, te l'ho spiegato dove. È proprio tu giri a destra, mi hai detto giri per salire, no? Allora, ti spiego. Fai allora, il ponte, cioè veramente, questo è dove è il ponte? Anche io passo lì. Vai sempre al quarto, sali, poi fai la discesa, fai la salita, anzi, fai la salita, poi fai tutto il rettilineo, poi c'è la discesa, praticamente è prendere la mola a fa, tu la mola a fa non ci fai, giri a destra, sali, fai tutta la salita, poi fai la discesa, 50 metri, a destra c'è la campagna di Marina. Tu fai troppe salite e discese, io da quel ponte giro a destra, salgo 50 metri prima del ripetitore della RAI, c'è una stradina sempre a destra, c'è il cancellato a casa. Faceva molto prima. È molto prima di te, sì, infatti te l'ho detto ieri. È molto prima. Lì c'è la casa, come Mario e Zilaria c'è i cani, la casa è abitabile, le strade ci abbiamo. Io devo finire la parte mia praticamente, però sto aspettando a vendere qua. Io per mercoledì ti ho premio, 2 di mattina e 1 di pomeriggio, ma non è che libera l'aria perché c'è il problema del cane che non fa entrare nessuno. Capito? Ilario c'è il suo riposo settimanale e quindi non lo muore, è andato papà, prendi gli appuntamenti per mercoledì, 2 di mattina, 1 di sera, in modo che non ci riempiamo la chiesa. Ho già avvisato, massimo 2 persone, che una volta mi sono giunto in 4, ho detto no, scusate un attimo, 2, aspettate fuori, giù. 2 solo, mettete una mascherina, entrate. Una volta ne venne 3, 4, tutta la famiglia, i figlioli, io e via di. Quindi, anche a questo ho detto, massimo 2 persone. Sì, vengo io e mia figlia, perfetto. L'altro Matteo, c'era moglie, ero marito. Se no, è un casino, questa cosa a lui è pericoloso, capito? Cosa ne gioco da soli? Assolutamente. Spero quest'anno di andarmene a qua, spero. Prima che mi tocchi a domandare un prestito alla regione, va a fare i facciati. 550.000 euro ci vogliono per fare facciate. Non te immaginaci. Cazzo, 550.000 euro, allora già è. Cosa devi fare d'oro? Allora lui, quella esterna, stai parlando di facciata alta per lungami, mi pare sia 30 metri lungami, cosa pensi che sia, piccola? No? 30, cosa sto dicendo? È 60 metri lunga, perché 30 la mia, sono due torri accoppiate, sono 60 metri lunga, alta 40, 36, 35. Ok, perché c'è anche la parte sopra mansardata. Solo per quella esterna ci hanno chiesto 250.000 euro. 250.000 euro, solo per quella esterna. Poi ci sono 100 e 100 e due laterali, ok, ma tutta rifatta a zero, 100 e 100. C'è il preventivo lui. Se mi ricordo, quando facciamo la riunione capiscala te lo faccio vedere. Faccio la foto, te lo faccio vedere. È una ditta di Sassari, che non ti dico chi è, ok, e poi ci ha chiesto 150.000 euro per quella interna, quindi esterno, interno, sempre facciata e due laterali, mi pare che sia, adesso non mi ricordo, non voglio sbagliare se 450.000 o 550.000, non mi ricordo. Certo, guardate come ne fuggitini subito. Ma se l'anno scorso, no, prima del colpo, quindi 2 anni fa, 2 estati fa, hanno rifatto tutti i poggioli di tutto il complesso, però attenzione, tutti, non solo delle due torri, di tutto il complesso, e solo va a fare, ma 4 zappoli lui, con una autoscala a noleggio, che l'avresti fatti tu, con la gattarella, l'uggimento, a salicare, zappoleggio e vernici, a salicare, zappoleggio e vernici, con le due tinte grigia e gialla, perché sono grigia e gialla, abbiamo speso 55.000 euro. Costata molto la scala. La scala è quella che costa, perché cosa ti sto dicendo? Però fino a quando fai i poggioli così, va bene, sotto poggioli, c'era una scala, mi pare, da 25 metri. Ma quando vi fate facciate, l'autoscala, quella che va messa fuori, perché il ponteggio non se ne può fare facciata, ok, perché ci sono i giardini, e poi dice non so il costo, non me la fotti nulla da me. Praticamente con l'autoscala è quella da 36 metri, mi pare, da 40 metri, di quell'autonoleggio che c'è, se non mi ricordo se è lì, non lo so, comunque. Allora tu vuoi che chi sarà lì? Ah, te lo dico con l'operatore quanto costa al giorno, 400 euro. Io facciamo 500, va ben chiesa, ma lo so. Ma 400 euro perché c'è il guadagno sicuramente di altre cose, io non ci voglio entrare, io sono caposcala della mia, della F, poi c'è Francesco che è caposcala della G, e ognuno già è caposcala, è praticamente referente dell'amministratore. E quando facciamo le riunioni e parliamo di queste cose è un costo elevatissimo. Ci hanno preso 6.000 euro per tagliare due pini e portare tutti gli alberi, 6.000 euro, e poi dirà, adesso devono fare tutta la sistemazione del verde, non so quanto vi può, poi c'è tutta la recinzione della stradina, perché è metà nostra, è metà del comune, quindi la parte nostra dobbiamo recintarla, come mettere le ringhiere, come tutto il perimetro, anche lì ci vogliono soldi, cazzo, è una cosa che piglia il buio, guarda. Io per i soldi che sto spendendo mi sistemo la casa, ok, quella che spetta appunto quella che abbiamo preso in obbligo familiare con Ilaria, mi finisco la mia e me vado fuori alle balle da qua. Ehi vabbè, comunque già puoi piazzare le antenne, sì. Sei casa duia. Dili a te o no? Diciamo che le antenne, l'antenna, le antenne. Non ci piace nulla io, l'antenna, certo, la manta la rimetto, certo. Faccio un plinto a terra, a fianco alla casa, di calcestruzzo, un pilastrino di calcestruzzo, col tubo da un metro e mezzo, e poi ci infilo l'altro dentro e tiro su. E vabbè, l'antenna è tipo anche quella VEU, o PMR, cos'è? No, non c'ho più niente, lui, né PMR, né VEU, né nulla. Ah, non sei venuto. Perché quando abbiamo tolto gli altri, poi io ho continuato. Ho lasciato quel di poco perché non ho avuto tempo, nel senso che poi ho cambiato il tempo, ho iniziato il freddo, poi ero incasinato perché stavo lavorando anche con mio cognato, io collaboro con mio cognato, quindi ero impegnato. Adesso come inizia il tempo bello, ne tolgo quei due pali che ci sono in facciata che mantengono il dipolo e pigio brulisso, in pratica rimane solo la manta, ma non c'è più niente su lui. Diciamo ce n'erano solo di scesa, prima ce n'erano tre, adesso ce n'erano solo, ho tirato su tutto. Ho staccato anche il, ti ricordi il commutatore elettronico? Ho staccato tutto, cosa devo commutare, se non mangio nulla. Sì, beh, avevamo smontato il tutto. Ma se ti ricordi erano rimaste quelle due piccoline, perché la 510 l'avevo regalata a Flipper, era rimasta quella del PMR, quella X50, anche quella che era tutto, ne ho tolto, cosa ne vai? Non ce n'è, no, radio non ce n'è più quello, ti mando la foto, non c'è più niente, nulla, i 240 li ho venduti, i 430 del centro assistenza, non c'ho niente, c'ho il Galaxy e tutte quelle vintage, praticamente è una stazione CB, ma non c'è più rimasto niente. E te ne avevi il radio, cacchio. Ne ho venduto solo 4 basi VU, 2 della Icom e 2 della Kenwood, fate il conto, solo 4 erano quelle basi però, basi. Poi ho venduto il 756, ho venduto il 1000, l'FT 1000, ho venduto l'FT 1000 e 1200, che c'era Andrea, ho venduto il 920, ho venduto pure anche la curatore, la T230, tutto quello che era parte amatoriale non c'ho più niente, mi sono trovato ridetto. Se no hai preso questa decisione, cosa ci vuoi fare? Dopo non prendere la decisione e via, si vende tutto. Che ne sono? Se è giusto sono le 11:20, c'ho io nell'orologio che c'è qua attaccato apparente. Sì, sì, le direttive è lo stesso, ho perduto altri elementi, il rotore, tutto. Mi è rimasta quella 5 elementi decimetri, te l'ho promessa uno, però è convinto che io vi rabbuccio bene, te la biglia, mamma, la fotti nuda, è lì, in mansarda. Tu me l'hai smontata tu, Emmy, appoggiata al muro lì. Ah, ho capito. Beh, mi sa che ci siamo battenti, sennò domani lo gucco che ha cucù. Eia, bello dai, anch'io rimango in quell'issimo, stavo lavando un po' di TV e poi me ne vado nel salone, stavo finendo di fare due cosette qua, ma chiudiamo dai, già ci aggiorniamo domani, ok? Ciao, buonanotte. Eia, ciao caro, domani buonanotte. Buonanotte anche agli ascoltoni. Yes.